Capitolo 30. Il mattino dopo ricevetti una breve lettera di Arthur che confermava quanto mi aveva accennato il signor Hargrave circa il suo ritorno, e la settimana successiva in effetti arrivò a casa ridotto in condizioni fisiche e mentali ancora peggiori della volta precedente. Non volevo però affrontare la cosa senza un commento, come avevo fatto allora, poiché non lo trovavo giusto. Il primo giorno era stanco per il viaggio e io contenta di averlo di nuovo qui. Non lo avrei rimproverato subito. Avrei aspettato il giorno seguente. Il mattino dopo era ancora stanco e decisi di aspettare ancora un po'. Fece colazione a mezzogiorno con una bottiglia di acqua gassata e una tazza di caffè. Pranzò alle 2 con un'altra bottiglia d'acqua in cui aveva messo del brandy e a cena si lamentò di quel che c'era in tavola e disse che avremmo dovuto cambiare cuoca. Allora decisi che era arrivato il momento. La cuoca è la stessa che avevamo prima che tu partissi e mi pareva che ne fossi soddisfatto. Evidentemente hai lasciato che prendesse cattive abitudini mentre ero lontano. Si rischia di restare intossicati mangiando questa robaccia. Allontanò bruscamente il piatto e si lasciò cadere indietro contro lo schienale della sedia con aria afflitta. Io direi che sei tu piuttosto a essere cambiato, disse allora, pur in tono gentile, dato che non volevo farlo arrabbiare. Forse, disse prendendosi un bicchiere di acqua e vino che bevve d'un fiato, perché ho un fuoco nelle vene che neppure tutta l'acqua del mondo riuscirebbe a spegnere. Stavo per domandargli cosa mai l'avesse acceso quando entrò il cameriere a sparecchiare. Veloce, Benson, e smetti di fare tutto questo rumore e non servire il formaggio se non vuoi vedermi dare di stomaco. Benson portò via il formaggio e, un po' sorpreso, cercò di sparecchiare in fretta e in silenzio. Spingendo violentemente indietro la sedia, il suo padrone aveva però lasciato una piega sul tappeto in cui il povero Benson inciampò, perdendo l'equilibrio. Seguì un po' di confusione, ma niente di grave, oltre a una salsiera che cadde e si ruppe. A quel punto, con mia grande vergogna e turbamento, Arthur si rivolse furioso contro di lui, coprendolo di insulti. Il poverino era diventato pallido e stava finendo di raccogliere i cocci, tremando come una foglia. «Non è stata certo colpa sua, Arthur. Ha inciampato nel tappeto e comunque non è successo nulla. Lascia stare, Benson, li raccoglierai più tardi», dissi. Lieto di poter rimandare quell'incombenza, Benson ci servì il dolce e uscì. «Cosa credevi di fare, Helen, a difendere quel servo contro di me sapendo che ero turbato?» mi chiese appena si fu richiusa la porta. «Ignoravo che tu fossi turbato, Arthur, e il poverino mi sembrava spaventato e offeso dal tuo scoppio d'ira». «Il poverino? E secondo te a me importa qualcosa dei sentimenti di una bestia tanto insulsa? Quando mi erano appena saltati i nervi a causa di quel suo dannato impaccio?» «È la prima volta che ti lamenti dei tuoi nervi. Oh, perché non posso avere io i nervi come ce li hai tu?» «Oh, ma io non stavo mettendo in dubbio che tu li avessi, io però non me ne lamento mai». «Certo, perché non li metti mai alla prova». «E tu perché li metti alla prova, invece? Cosa credi che possa starmene in casa tutto il tempo a prendermi cura di me come una donna? Quindi quando sei fuori casa non riesci a prenderti cura di te come un uomo? Eppure mi avevi assicurato che ne eri capace e che l'avresti fatto». «Ora, Helen, non iniziare con questa storia che non lo sopporto». «E che cosa non sopporti? Che io ti ricordi le promesse che non hai mantenuto?» «Ah, sei senza cuore! Se sapessi come mi batte forte il cuore, come tremano i miei nervi mentre mi parli, avresti pietà di me. Riesci a compatire uno stupido servo che ha rotto un piatto e non riesci a risparmiare me, che ho la testa che mi scoppia e una febbre che mi sta consumando?» Si prese la testa in una mano e tirò un profondo sospiro. Allungai una mano per sentirgli la fronte. Era calda, effettivamente. «Vieni con me in salotto, Arthur, e lascia stare il vino, che ne hai già bevuto abbastanza e non hai mangiato nulla per tutto il giorno. Come puoi credere che ti faccia bene?» Lo convinsi ad alzarsi da tavola con qualche carezza e parola premurosa. Quando mi portarono il bambino, provai a farlo stare un po' con lui, ma il piccolo Arthur stava mettendo i denti e il padre non sopportava di sentirlo piangere, così lo cacciò al primo lamento. Poiché nel corso della serata lo raggiunsi, nel suo piccolo esilio, fui accusata di preferire mio figlio a mio marito, e quando tornai lo trovai sdraiato sul divano così come l'avevo lasciato. «Ah, ecco», mi disse in tono offeso e rassegnato, «non volevo mandarti a chiamare per vedere quanto tempo mi avresti lasciato da solo». «Ma non sono rimasta via tanto a lungo, sarà stato meno di un'ora, ne sono sicura». «Certo, cosa vuoi che sia per te un'ora quando sei lì a divertirti? Io invece...» «Non mi stavo divertendo, ma prendendomi cura di nostro figlio, che non sta bene, e non potevo certo andarmene prima che prendesse sonno. Ma certo, tu sei capace di dolcezza e compassione per tutti tranne che per me. Ma perché mai dovrei compatirti, Arthur? Che cos'hai? Ah, questa poi. Dopo quel che ho passato, torno a casa malato, aspettandomi il conforto almeno di mia moglie, e lei mi domanda che cos'ho che non va. Ma tu non hai proprio niente che non va. Infatti, se non quello che ti sei procurato da solo andando contro le mie preghiere e i miei consigli. Stammi a sentire, Helen, disse lui sollevandosi in tono enfatico. Se mi darai noia con un'altra parola su questo argomento, io suono la campanella e mi faccio portare altre 6 bottiglie di vino e me le finisco tutte prima di andare a letto. Non aggiunsi altro. Presi un libro e andai alla scrivania. Dammi tregua almeno, se non vuoi offrirmi altro conforto, aggiunse rimettendosi giù ed espirando un qualcosa a metà tra un sospiro e un lamento. Poi chiuse gli occhi come per addormentarsi. Non so dire quale libro avessi aperto sul tavolo davanti a me perché non lo guardai neppure. Avevo i gomiti ai lati del libro e le mani sugli occhi e scoppiai in un pianto silenzioso. Arthur però non stava dormendo e al mio primo singhiozzo alzò la testa guardandosi attorno ed esclamando: Helen, perché piangi? Che diamine ti prende ora? Sto piangendo per te, Arthur, gli dissi. Poi mi asciugai le lacrime, mi alzai e lo raggiunsi mettendomi in ginocchio di fronte a lui. Presi la sua debole mano tra le mie e dissi: Sei una parte di me, non lo sai? Credi di poterti fare del male e abbrutirti in questo modo senza che io abbia a soffrirne? Abbrutirmi, Helen? Proprio così, che cosa hai fatto per tutto questo tempo? Faresti meglio a non domandarmelo, rispose accennando un sorriso. E tu faresti meglio a non dirmelo allora, ma di certo non puoi negare di esserti abbrutito penosamente. Hai inflitto un danno disonorevole a te stesso, corpo e spirito, e a me. Non posso restare a guardare senza una parola e non lo farò. Non mi stringere così forte la mano e non agitarmi così, per l'amor di Dio. Oh, Hattersley, quanto avevi ragione. Questa donna mi porterà alla morte con il suo forte carattere e i suoi sentimenti tanto intensi. Vacci piano, Helen, abbi pietà di me. Arthur, tu devi pentirti! Gridai in un'esplosione disperata, abbracciandolo d'improvviso e nascondendo il viso sul suo petto. Devi dirmi che ti dispiace per quello che hai fatto. D'accordo, va bene, mi dispiace. E invece non è vero, tu lo rifarai. Non vivrò abbastanza a lungo per farlo se continui a trattarmi con questa impetuosità, disse allontanandomi. Per poco non mi hai soffocato stringendovi in quel modo. Così dicendo, si portò una mano al cuore e sembrava davvero turbato e sofferente. Adesso portami un bicchiere di vino, tigre, così da rimediare a quel che hai fatto. Sto per svenire. Andai di corsa a prendergli quanto aveva chiesto e in effetti sembrò giovargli. Che peccato che un uomo tanto giovane e forte come te finisca per ridursi in queste condizioni, dissi togliendogli di mano il bicchiere vuoto. Se sapessi tutto, cara mia, diresti invece incredibile che tu riesca a sopportare tanto. Ho vissuto più io in questi ultimi 4 mesi di quanto vivrai tu anche arrivando a 100 anni. Dovevo aspettarmi di pagarne lo scotto. Ma lo scotto sarà più caro di quanto credi, perché se non fai attenzione, oltre a perdere la salute, perderai anche il mio affetto, ammesso che significhi ancora qualcosa per te. E ricominci a minacciarmi di poter perdere il tuo affetto ora? Si vede che non doveva essere nemmeno tanto forte in partenza, se è tanto facile che svanisca. Spero che ti darai una regolata, cara la mia tiranna, o sarò costretto a rimpiangere la mia scelta e invidiare a Hattersley una moglie docile, che è un vero esempio di virtù femminile, Helen. Hattersley l'ha portata a Londra con sé, dove è rimasta tutta la stagione. Lui era libero di venire a divertirsi quanto voleva, in pieno stile da scapolo, e lei non l'ha mai rimproverato di trascurarla. Era libero di tornare a casa a qualsiasi ora o di non tornare, di essere allegro o triste, sobrio o ubriaco, di fare il matto, lo stupido, come meglio credeva, senza paura che lei lo disturbasse. Non lo rimprovera mai e non si lamenta mai qualsiasi cosa lui faccia. Hattersley dice che non esiste un simile tesoro in tutta l'Inghilterra e afferma che non la cambierebbe con nient'altro al mondo, neppure con un regno intero. Eppure rende la sua vita un inferno. No, la volontà di lei coincide con la sua ed è felice se lui si diverte. In questo caso sarebbe anche lei una stupida, come lui. Ma non è così. Mi ha scritto spesso esprimendomi la sua preoccupazione per il comportamento del marito e lamentandosi che tu lo spinga a questi eccessi. In una lettera in particolare mi ha anche chiesto di usare l'influenza che ho su di te per far sì che te ne andassi da Londra. Diceva anche che Hattersley non ha mai fatto certe cose prima che arrivassi tu e che di sicuro avrebbe smesso non appena te ne fossi andato, lasciandolo libero di accedere al suo buon senso. Che odiosa, piccola traditrice. Fammi vedere la sua lettera che voglio mostrarla a suo marito. Non se ne parla. Non la vedrà se non ha il consenso di Millicent. In ogni caso, anche leggendola, non vi troverebbe nulla di offensivo, così come non troverebbe nulla nelle altre lettere. Non dice mai niente di cattivo. Si limita a esprimere la sua preoccupazione. Quando parla della sua condotta, lo fa sempre in termini morbidi e prova a giustificarla come può. E per finire, dalle sue lettere si capisce benissimo quanto dovesse soffrire. Eppure insulta me, e tu devi averla incoraggiata in questo. No. Le ho solo detto che sopravvalutava l'influenza che ho su di te e che potendoti avrei allontanato da quelle tentazioni, ma non speravo di riuscire a farcela. Le ho scritto che pensavo si sbagliasse a pensare che tu trascinassi il marito o chiunque altro nel vizio, che anche io l'avevo pensato un tempo che fossero gli altri a trascinare te, ma che in fondo avevo capito che era un'influenza reciproca a corrompervi tutti. Le ho anche consigliato di avanzare delle lievi proteste, pensando che sarebbero potute servire, giacché, per quanto ritenessi suo marito più grezzo del mio, lo giudicavo meno indifferente. Dunque, è così che fate? Vi incoraggiate a vicenda a importunarci, accusando l'una e il marito dell'altra con gran soddisfazione? Da quel che mi ha detto, i miei consigli non hanno avuto grande effetto su di lei. Quanto alle offese e alle reciproche diffamazioni, ci vergogniamo entrambe così tanto della condotta dei nostri mariti da evitare di farne un argomento di conversazione nelle nostre lettere. Siamo amiche, è vero, ma preferiremmo nascondere l'una all'altra le vostre colpe, così come le vorremmo nascondere a noi stesse, se non fosse utile sapere che esistono perché possiate liberarvene. E va bene, ma ora non stare ad angosciarmi con queste chiacchiere, non ne tirerai fuori niente. Sii paziente, sopporta questo mio stato di debolezza e irascibilità ancora per un po'. Aspetta che mi passi questa febbre e poi tornerò allegro e gentile come sono sempre. Non riesci a essere buona e brava come la volta scorsa? L'ho apprezzato molto. E cosa me ne sono fatta della tua riconoscenza? Mi sono solo illusa che tu provassi vergogna per i tuoi vizi e speravo che non sarebbe più successo. Certo, a questo punto ogni speranza è perduta. Mi ritieni un caso tanto disperato? Sarebbe ottimo se questo bastasse a liberarmi dalla noia e dall'angoscia che mi procuri con la tua ansia di riportarmi sulla retta via, ed evitasse al tuo viso dolce e alla tua voce limpida di essere rovinati dai suoi effetti. Uno scoppio di passione è bello di tanto in tanto, Ellen, così come trovo commovente un pianto dirotto, ma quando accade troppo spesso, diventano cose brutte, che rovinano la bellezza di una donna e stufano i suoi amici. Da quel momento, tenni a bada le lacrime e le emozioni. Non provai quasi più a incoraggiarlo invano a redimersi, poiché vedevo che era tutto inutile. Solo Dio avrebbe potuto ridestare il suo cuore intorpidito dalla pigrizia e dall'autoindulgenza, liberare il suo sguardo dalla patina della depravazione. Io no. Mi irritava il modo ingiusto in cui trattava la servitù, che non poteva certo difendersi, e mi opponevo sempre. Quando invece l'oggetto dei suoi sfoghi ero io, cosa che accadeva spesso, cercavo di essere paziente. Tranne quando mi capitava di essere stufa delle sue provocazioni continue o molto offesa da qualche sua nuova follia, e allora mi attiravo accuse di cattiveria, durezza, impazienza. Ero disponibile ad assecondare i suoi bisogni e i suoi svaghi, ma certo non con lo stesso affetto. Non mi sarebbe stato possibile. A quel punto, poi, c'era qualcun altro che richiedeva la mia presenza e le mie attenzioni, il mio piccolo. Per lui accettavo di affrontare i rimproveri e i biasimi di suo padre, che si mostrava esigente oltre ogni buon senso. Tuttavia Arthur non è uomo irascibile per natura, lo è così poco che quelle manifestazioni di nervosismo e furia sembravano quasi comiche, nate per suscitare risate e non rabbia, se non vi fossero state considerazioni più gravi e profonde legate alle condizioni del suo corpo malsano. Via via che andava recuperando la salute, anche l'umore migliorava. E tutto avvenne più velocemente del previsto, soprattutto grazie alla mia rigida determinazione. E il suo desiderio di vino era aumentato, come avevo giustamente anticipato. Non era più solo un accessorio al divertimento in società, ma una fonte di piacere di per sé. In quel periodo di crisi e debolezze ne avrebbe fatto il suo compagno, il suo unico conforto, finendo solo per precipitare sempre più in basso. condannandosi a rimanere per tutta la vita nell'abisso in cui era caduto. Io, però, ero determinata a non permettere che accadesse, fin tanto che era ancora in mio potere impedirlo. Certo, non potevo vietargli di consumarne più del necessario, ma con instancabile tenacia, con dolcezza, fermezza, sorveglianza, smancerie e coraggio, riuscii a impedire che quel vizio tanto tirannico e pericoloso lo sequestrasse completamente e inesorabilmente. Devo riconoscere in questo di essere non poco in debito col signor Hargrave. In quel periodo veniva spesso a Grasta e le si fermava a cena con noi. In quelle occasioni Arthur avrebbe senz'altro dimenticato volentieri ogni giudizio e contegno per darsi alla baldoria se il suo amico gli avesse dato corda. Se quest'ultimo l'avesse assecondato, insomma, avrebbe rovinato in un paio di serate il lavoro che avevo fatto per settimane, distruggendo in un soffio il fragile recinto che avevo costruito tanto faticosamente. La sola idea mi angosciava, al punto che mi abbassai a parlargliene in privato, confidandogli la mia preoccupazione per gli eccessi di Arthur e la mia speranza che lui non li incentivasse. Apprezzò questa prova della mia fiducia e non la disattese. Da quella sera la sua presenza fu al contrario un freno piuttosto che uno stimolo a ulteriori trasgressioni. Hargrave riuscì sempre a farlo alzare da tavola presto e in condizioni accettabili, dato che quando frasi come «Lungi da me volervi trattenere dalla vostra signora» o «Non dimentichiamoci che la signora Huntington è di là da sola» restavano inascoltate, era lui stesso ad alzarsi per raggiungermi e quindi Arthur, per quanto di malavoglia, doveva seguirlo. Il signor Hargrave divenne per me un vero amico di famiglia. Inoffensivo per Arthur, in grado anzi di tirargli sul morale e strapparlo alla noia e alla solitudine che spezzava altrimenti solo con la mia presenza, oltre che un onesto alleato. Gli ero sinceramente grata e non mancai di farglielo presente quando ne ebbi l'occasione. Anche in quel momento, tuttavia, il mio cuore continuava a suggerirmi che qualcosa non tornava. Arrossii e il mio imbarazzo peggiorò, vedendo come Hargrave mi fissava con i suoi occhi seri e penetranti, rinforzando i miei peggiori presentimenti. Era compiaciuto di essermi stato utile, ma quel sentimento si mescolava con la compassione che provava nei miei confronti e con una certa autocommiserazione, sebbene ignorassi per cosa, ne pensai di chiederglielo per evitare che mi confidasse le sue pene. I suoi sospiri e gli accenni a un suo conflitto interiore dovevano venire da un cuore in piena, ma avrebbe fatto meglio a tenerli per sé, o trovare qualcun altro a cui confidarli. C'era già sin troppa confidenza tra di noi. Non trovavo giusto che tra me e l'amico di mio marito ci fosse un'intesa di cui Arthur era all'oscuro e di cui egli stesso era l'oggetto. Anche se poi mi dicevo, è certamente colpa di Arthur, non mia, se c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo. Anzi, è possibile che in quel momento il mio rossore fosse per lui, più che per me. Lui e io siamo la stessa cosa, infatti, e mi identifico così tanto in mio marito che le sue colpe e le sue debolezze le sento come fossero le mie. Arrossisco per lui, mi angoscio per lui, mi pento per lui, mi dispero, prego e soffro per lui come per me stessa, ma agire per lui questo non posso farlo. Ed ecco perché sono degradata anch'io, intossicata ai miei occhi e nella realtà. Tale è il mio desiderio di amarlo e soprassedere ai suoi sbagli che non faccio che pensarci. Sono così determinata a distruggere le sue visioni più libertine, i suoi peggiori comportamenti, da entrare io stessa in confidenza con quei vizi, finendo per partecipare di tutti i suoi peccati. Cose che un tempo trovavo immorali e rivoltanti mi appaiono ora normali. So che sono sbagliate, me lo dicono la ragione e la parola di Dio, ma sto pian piano perdendo questa repulsione e questo rifiuto istintivi che avevo per natura o per via di quanto ho imparato dall'esempio di mia zia. Certo, magari un tempo ero sin troppo severa nei miei giudizi, perché rifiutavo il peccatore oltre che il peccato, mentre ora mi pregio di essere più compassionevole e indulgente, ma non starò piuttosto diventando più impermeabile e indifferente. Come sono stata ingenua a pensare di poter salvare sia me che lui. La mia presunzione meriterebbe che finissi con lui nel gorgo del peccato da cui volevo salvarlo. Dio, abbi pietà di me e abbi pietà di lui. Caro Arthur, continuerò a pregare anche per te. E sebbene scriva di te come se tu fossi un relitto abbandonato e senza speranza, È solo per via della mia ansia e della mia paura. Una moglie meno innamorata sarebbe meno amara, meno insoddisfatta. Ultimamente si è comportato in maniera che il mondo direbbe impeccabile, ma so che nulla è mutato nel suo cuore e che la primavera è vicina e io ne temo il contraccolpo. Appena ebbe ritrovato la salute e le forze, e allo stesso tempo anche l'antica insofferenza nei confronti della solitudine e del riposo, proposi che andassimo al mare, perché si potesse riprendere del tutto e pensando che avrebbe fatto bene anche al bambino. Niente da fare. Le città di mare erano tutte troppo noiose per lui. E poi un amico l'aveva invitato a raggiungerlo in Scozia per un paio di mesi a fare qualcosa di molto più divertente, la caccia al gallo cedrone e al cervo. E lui gli aveva promesso di andare. Mi lascerai di nuovo, Arthur? Sì, mio tesoro, ma solo per poterti amare ancora di più al mio ritorno e rimediare alle offese del passato. Non hai ragione di preoccuparti per me. Sulle montagne non ci saranno tentazioni. Mentre sarò via, potresti andare a Stalingrad se vuoi. I tuoi zii ci invitano spesso, ma con una tale antipatia tra me e la signora che non ho mai ritenuto fosse il caso. Ero determinata a far tesoro di questa possibilità, per quanto a disagio al pensiero delle domande che la zia mi avrebbe fatto circa la mia vita matrimoniale, sulla quale ero stata sempre molto riservata nelle lettere. Arthur partì per la Scozia, verso la terza settimana di agosto, in compagnia del signor Hargrave, con mio grande piacere. Poco dopo, insieme con il mio bambino e con Rachel, io andai a Stalingrad. Rivedere la mia vecchia amata casa e i suoi abitanti fu doloroso e piacevole al tempo stesso, tanto da non riuscire a distinguere a quale dei due sentimenti attribuire le lacrime, i sorrisi e i sospiri che mi ha suscitato a rivedere luoghi e volti familiari. Non erano passati neppure 2 anni dall'ultima volta che li avevo visti, ma sembravano molti di più, per quanto ero diversa e quanto erano le cose che avevo visto e imparato nel frattempo. Lo zio mi parve più vecchio e malandato, la zia più triste e pesante. Ho idea che si fosse convinta che in fondo rimpiangessi la mia sconsideratezza. Non me lo diceva apertamente, né, come temevo, era lì a rammentarmi i suoi antichi consigli che io avevo deliberatamente scelto di non seguire. Però mi osservava più attentamente di quanto mi facesse piacere, diffidente rispetto alla mia allegria e pronta invece a indugiare sulle note più serie o tristi. Era attenta a tutto quel che dicevo e in silenzio andava facendosi un'idea. Mi interrogava sistematicamente, riuscendo a tirarmi fuori cose che non le avrei mai detto spontaneamente. Alla fine, rimontando insieme i vari pezzi, ebbe un quadro abbastanza chiaro di quali fossero i difetti di mio marito e le mie pene, ma non di quali e quante fossero le mie speranze e le mie risorse. Malgrado tentassi di calcare sulle qualità migliori di Arthur, per stemperare il suo giudizio, parlandole anche del reciproco affetto che ci teneva insieme e dei molti motivi che avevo per ritenermi soddisfatta, lei mi ascoltava con distacco, come fidandosi più delle sue deduzioni, malgrado avesse cercato di esagerare un po' gli aspetti positivi della mia vita. Tenevo così tanto a mostrarmi felice del mio destino solo per orgoglio? O perché volevo affrontare quel peso da sola, senza coinvolgere la mia migliore amica in una situazione dalla quale proprio lei aveva cercato tanto strenuamente di tenermi lontana? Di certo, entrambe le cose, ma quest'ultima in particolare credo fosse preponderante. Non mi fermai molto, perché questa costante vigilanza della zia mi soffocava, così come la sua regolare diffidenza nei miei confronti, che vivevo come un muto, incessante rimprovero, più di quanto lei potesse immaginare, ma soprattutto perché avevo capito che il piccolo Arthur era un peso per lo zio, che pure gli era affezionato, e non era di gran consolazione per la zia, malgrado gli volesse bene e si prendesse volentieri cura di lui. Cara zia, mi hai cresciuta con dolcezza da quando ero bambina, tirandomi su con tanta cura fino alla gioventù solo per ricevere in cambio questo. Che finissi per frustrare le tue speranze, contrastare i tuoi desideri, ignorare i tuoi moniti e i tuoi consigli e gravare i tuoi ultimi anni con tormenti e apprensioni che non puoi sanare. Al solo pensiero sentivo il cuore gonfiarsi e di nuovo tentavo di convincerla di essere felice della mia vita. Ciò nonostante, prima che salissi sulla carrozza, le ultime parole che mi rivolse stringendomi e baciando il bambino che tenevo in braccio furono: «Abbi cura di tuo figlio, Helen. In questo modo forse ci saranno di nuovo giorni felici per te. Immagino che al momento lui sia per te motivo di conforto e amore, ma se lo vizierai troppo solo per andare incontro ai tuoi sentimenti, finirai per spezzarti il cuore e allora sarà tardi per tornare sui tuoi passi». Arthur tornò a Grassdale molte settimane dopo, ma la sua lontananza non era per me fonte di preoccupazione. Saperlo impegnato a caccia tra i monti della Scozia non era certo come saperlo a Londra in balia di ogni tentazione. Mi scriveva lettere normali, non lunghissime né da innamorato, ma più che mai irregolari. E quando tornò non stava affatto peggio di quando era partito, anzi, era in gran forma, allegro e robusto. Da allora non ho quasi avuto motivo di biasimarlo. Certo, mostra ancora abitudini smodate a tavola, cosa alla quale devo prestare attenzione, ma in compenso inizia ad accorgersi di avere un figlio, con il quale inizia a divertirsi quando è in casa, mentre fuori, se non è troppo freddo, si svaga con la caccia alla volpe e con i cani. Insomma, non dipende più soltanto da me per divertirsi. Tuttavia, è gennaio, presto arriverà la primavera e io, come ho scritto poco sopra, ne temo il contraccolpo. Quella stagione tanto dolce, che un tempo aspettavo con trepidazione e che consideravo il periodo della speranza e della felicità, al momento sollecita pensieri ben diversi.